Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sarà la nostra nuova casa, diciamo. Quello che mi piace in questa casa è il giardino al centro. E su questo giardino dobbiamo continuare a scrivere la storia della Roma, sicuramente. Molto emozionante, ho visto qualcosa su un computer, ma niente di paragonabile a quello che ho visto oggi. Ora la speranza è che veramente questi lavori siano molto veloci e che nel frattempo che costruiscano questo stadio potremmo insomma continuare a dare gioia ai nostri tifosi nel vecchio stadio e magari arrivare in questo con dei trofei importanti. Una casa di tutti noi romanisti, speriamo di vincere tantissime cose e portare in alto veramente i colori della Roma. Mamma mia che serietà, però vabbè, questo quanto è successo oggi a Roma è importante. Franco Bentani, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Benissimo. Mi dicono che a Roma faccio un freddo cane, però è piena primavera calcistica. Beh, sicuramente, no, poi il progetto di oggi è una bella cosa, insomma, tolto diciamo l'ambiguità o l'equivoco che lo stadio ti fa vincere subito, sì. Nel senso che per costruire lo stadio comunque servono capitali e per quanto tu li possa trovare con gli sponsor, col project financing, comunque c'è anche il rischio, come è successo per esempio all'Arsenal, che ci possano essere degli anni in cui investi un po' meno proprio perché devi costruire lo stadio, però è un investimento, e il caso della Juve lo dimostra, eccezionale, e in questo momento in Italia è un grande vantaggio competitivo rispetto a tutti gli altri. Poi io non credo che la Juve vinca il campionato perché ha lo stadio, lo vince perché ha la squadra più forte. Però in prospettiva credo che sia veramente una grande cosa. Ma sai, un po' effetto che siano dovuti venire gli stranieri per sì. No? però va bene così, dai. No, poi c'è il sindaco Marino stamattina ha detto: allora, lo stadio lo facciamo adesso in 90 giorni e io sarò qui a tenere i conti. 25 giugno ai mondiali ci saranno già controllato Honduras, Svizzera, Ecuador, Francia, Nigeria, Argentina e Bosnia e Iran, ancora prima fase. 25 giugno voglio vedere se c'è l'ok da parte del Comune di Roma e saremo qui a certificare da bravi notai. Poi ha detto anche, però aspetta un attimo, si fa lì a Tor di Valle dove c'era il vecchio ippodromo. Le infrastrutture le fate voi e dovete darci garanzie che fate, quindi lo svincolo autostradale, metropolitana, la stazione ferroviaria e tutto quanto. Quindi questo sia chiaro. 90 giorni va bene, perché tanto adesso c'è la legge che dovrebbe permettere un iter veloce. 600-700 milioni di euro e si può fare, poi però vediamo. Roberto Renga, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Roberto. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Allora, siamo qui a contare i giorni, no? 90 e dovrebbe esserci il via libera del comune. Roma più che mai capitale dell'impero, stadio nuovo, Obama è in arrivo, perché domani sarà lì. Obama è sicuro che arriva, lo stadio è stato presentato il progetto. Io da quando faccio questo mestiere lavoro e a Roma ne ho visti presentare parecchi di progetti. Sì, Di fare stadi nessuno. Io mi auguro che in 90 giorni veramente possano essere risolti. Non c'è la legge nuova che tutto risolve. No, la legge nuova mica da soldi, attenzione. No, i soldi mettono gli americani. A livello burocratico ti evita qualche laccio. Ma io ho guardato il progetto questa mattina, immagino come l'avrà guardato con attenzione, tutti l'avranno guardato tutti e in particolare il sindaco Marino. È chiaro che uno stadio significa stadio, non significa tutte le strutture intorno, non significa ristoranti o negozi o centri commerciali o altro. E quindi io non lo so, devo dire che a guardare il primo sguardo mi sembra che invece tutto questo sia previsto. Sì, Roberto, però è quasi normale che sia previsto, perché insomma per quello che la Roma prova a buttarsi in quello che per l'Italia è il futuro, per il resto d'Europa è già un presente consolidato da anni e in questo presente consolidato da anni. Anch'io sì. Costruire una casa mia e chiedo di poter costruire un centro commerciale. Sì, lascia stare, che cioè prova a costruirti una casa, prendi un terreno, digli ok, costruisco la mia casa sopra qua, non ti asciughi più gli occhi. Ma comunque, al di là di questo, perché la burocrazia in Italia non sparisce con una legge nuova questi 90 giorni. Però al di là di questo, in teoria il Comune di Roma dice benissimo, l'area è quella, fate tutto voi, ci mettete i soldi voi, ci pensano gli americani, Caio Giulio Pallotta con la corona d'alloro e Totti vestito da legionario. Dovrebbe essere così, carina, no? L'idea è molto carina molto e carina. Saremo tutti molto contenti, evidentemente, se da qui a 2 o 3 anni veramente ci potesse essere uno stadio. Renga non ci crede. Pardo? Sì, no, io credo che noi dobbiamo tornare a pensare in grande, che sembra uno slogan elettorale, ma è così. Cioè, a me sembra che l'Italia negli ultimi anni viva in una fase di depressione, pessimismo. Abbiamo bisogno di cose nuove, abbiamo bisogno di recuperare. È chiaro che i problemi ci sono e non è che con degli investimenti che possono essere anche sbagliati, perché c'hanno dei costi e non sai il ritorno, è chiaro che un rischio c'è, però la mia sensazione da quarantenne che vive l'Italia in questo momento è che questo sia il più grande nemico, la sensazione che tanto non riesce a far niente, la condanna a un destino cupo e malinconico e di decrescita. Ecco, io penso che invece il caso dello stadio della Juve lo dimostra in maniera eccezionale, tanto per capirci, non è che la gente non va allo stadio perché non gli piace più il calcio, la gente non va allo stadio perché lo stadio fa mediamente schifo in Italia, sì, la è gente anche molto difficile e costoso andarci. Ci va perché è uno stadio stupendo, perché è uno stadio bellissimo, dove ci sono i parcheggi, dove è bello stare, dove c'è anche la novità, dove i bagni sono fatti in un certo modo, dove ci sono le stelle che ricordano la storia della Juve, e la Roma farà la stessa cosa. Sì, ma tu sei d'accordo in salsa romana, in salsa americana o cacio e pepe? Sì, ma tu sei d'accordo con Renga che dice lo stadio deve essere uno stadio e non tutto il resto? Beh, nel mondo di oggi le due cose come fanno a essere scisse? Ci sono stadi, ma anche stadi tradizionali, dentro al Bernabeu c'è il ristorante, cioè non è soltanto... Dentro ci mancherebbe, vai anche allo stadio dell'Atletico Madrid, no? Il vecchio stadio, ci sono queste sale da ballo, questi negozi bellissimi. All'interno dello stadio tutto quello che vuoi, ma fuori dello stadio niente per me, perché proprio non è terreno mio, è terreno dei cittadini di Roma. Sinceramente no, io non sono d'accordo. Io non credo che uno per fare uno stadio, attenzione, non dico un ospedale, dico uno stadio, debba avere in cambio del terreno dove costruire i centri commerciali, non lo crederò mai, e sono contro la cementificazione, per cui mentre sono estremamente favorevole allo stadio, ma ci picchia, quante ne vorrei, uno della Roma, uno della Lazio, uno del Latina e di tutti quanti, ma che se li facciano i presidenti. Sì, però io credo che sia un modo... Piero, un attimo per il traffico che è la discussione, ma è interessante, invito anche gli ascoltatori ovviamente, 800240024, ci credete o no? Deve essere sullo stadio o può essere qualcos'altro? Tutti convocati. Immobile, va Maicon a cercare di fermarlo, poi va a recuperare lo stesso Maicon, la palla per Gervinho, la possibilità per Gervinho, il tocco per Florenzi, la rete di gara, il tiro, gol! Un po' preoccupato per la salute di Carlo Zampa tutte le volte che lo sento. Che gli ha fatto tutti quanti Ventura, siamo Zampa? Preoccupati. Ma il povero Ventura, no? Io stavo sentendo ciao Ventura. Pensa che depressione Ventura ieri. No, ma infatti non capisco perché il povero Ventura. Ma perché l'avevano inquadrato in quel momento lì? Ah, certo. Ma che una persona splendida poi. Pensa quanto avrà sofferto ieri. Quando sì. No, tra l'altro devo dire che Torino bellissimo il Torino di quest'anno è un Torino che secondo me conferma pienamente tutti gli stereotipi sul trementismo Granata, nel senso sì. Che gioca molto bene, è sicuramente il miglior Torino da parecchi anni a questa parte, ma ha una sfiga in alcune partite clamorose che gioca, è successo con la Juve nei due derby, comunque sappiamo in tutti e due i derby c'è stato qualcosa su cui recriminare, certo. È successo ieri con la Roma, non meritava di perdere, è successo col Napoli in casa, insomma c'è questo tratto del destino. Lo so, ma però Torino-Milan la differenza che Torino-Milan pareggio al 95esimo, la differenza è che normalmente queste cose succedevano quando eri un punto sopra la zona rossa della retrocessione, adesso le prendi con la giusta cazzatura. È in nomination per il premio della critica della stagione. Il Torino poi non lo vincerà perché secondo me oggi lo vince il Parma. Oggi. Ragazzi, poi torniamo a parlare di stadi, però permettetemi questa domanda: ma il capocannoniere del campionato deve di default per assioma andare ai mondiali? Lo chiede Roberto Renga per Luigi Pardo e gli ascoltatori. 800 24 00 24. Ma diamine, certo che sì. Sì. Ragazzi, in questo momento è il miglior attaccante del campionato italiano. Tra l'altro è italiano, è napoletano, c'ha una faccia simpatica e è anche giovane. E comunque, male che vada, fa esperienza per i campionati europei che saranno l'obiettivo vero della nazionale italiana. Ma tra Osvaldo, ottimo giocatore, per carità, ma ormai alla conclusione di una carriera di alti e bassi, e Immobile, ma io tutta la vita Immobile porto. Che non vuol dire caccio Balotelli, Balotelli me lo porto comunque, ma anche Destro per esempio, i centravanti comunque per esempio nell'82 i centravanti erano tre, io porterei Destro, Immobile e Balotelli. Un po' rischioso tutti e tre. Perché? Litigano dici? No, non perché litigano, perché Destro reduce da un lungo infortunio, da tanti infortuni lo sappiamo, bene. Ha ripreso bene, poi sia Immobile che Destro, esperienza internazionale così. Zero. Però vedi che Osvaldo stesso però è andato in Inghilterra e non l'hanno mai fatto giocare, sì. Quindi sai l'esperienza internazionale, per carità, ci vorrebbe, io so bene però che questi mondiali noi non faremo benissimo, perché i mondiali fai bene quando l'età media è tra i 27 e i 28 anni, no? Vai a vedere la storia dei mondiali, sempre così, i nostri sono troppo giovani, i nostri più carini, diciamo, Terrazzi, sì. Florenzi, no? Gli Insigne, gli Immobili. Beh, però insomma, un po' di fiducia ci vuole, Destro, Immobile, Florenzi, Verratti che tu hai citato, poi ce n'è qualcun altro, possiamo aggiungere Darmian, De Sciglio, gli europei. Darmian è ottimo. Ottimo, però saranno buoni, almeno come lo vedo io, da quello come ho studiato la nazionale in questi anni, saranno buoni per gli europei. Io non credo, non c'è una nazionale europea che abbia mai vinto in America, intanto il massimo l'ha fatto l'Italia, no? Arrivando a seconda due volte in Messico e poi negli Stati Uniti, e quindi non vinciamo, e l'Italia se non vince, capisci, no? Che già ci prende la depressione, sì. Allora io dico ok, limitiamoci a cercare di arrivare tra i primi otto, ma almeno facciamo fare esperienza in vista degli europei. Pierluigi, che ne pensi? Penso che Immobile in questo momento sta troppo bene. Abbiamo poche certezze, nel senso che questa è stata una stagione che ha confermato, cioè ha smentito tutte le certezze di Prandelli. La certezza di quest'anno doveva essere Balotelli, che era venuto in Italia anche forse per essere più vicino al commissario tecnico e per crescere in una società comunque con le spalle larghe, fino a prova contraria, che forse sta arrivando in questi mesi, ma insomma come il Milan, si diceva il Milan sarà in grado di cambiarlo. E Cassano, che sembrava una storia finita, invece mi sembra che si stia riproponendo in maniera clamorosa. E poi ci sono queste esplosioni che sono clamorose. Immobile secondo me in questo momento è avanti a Destro, ma non bisogna neanche sottovalutare i numeri di Destro, che è arrivato a 9 gol giocando, non mi piace da morire. No, ma poi giocando a metà stagione, quindi diciamo facendo una proiezione, se avesse giocato 10 partite in più, 15 partite in più, forse adesso stava, se non a 17 stava almeno a 13, 14, 15, e quindi siamo messi così e non è Cassano portiamolo, quanti attaccanti portiamo? Sei attaccanti, quindi allora sarebbero questi tre? Allora vediamo poi, tre centravanti, poi sì. Cassano, che io me lo prendo a prescindere, perché per l'ultima mezz'ora mi fa vincere le partite, sì. E poi Totò e Totò, e siamo a quattro. A questo punto ci devo mettere Giuseppe Rossi, se recupera. Vabbè, se recupera. Adesso poi ci metto uno che mi possa fare anche l'esterno destro per eventualmente allargare il gioco, Cerci, fare un attacco a tre. Quindi o Cerci o Candreva e ci siamo. Io non dimenticherei un giocatore, qualora Cassano, no, a lui non piacesse per motivi, non lo so, fisici, Diamanti, io stravedo per Diamanti, cioè questi giocatori diversi che mi possono spaccare la partita. Questo sono d'accordo, però Pardo mi diceva un altro giorno che insomma è in Cina, quindi nonostante sia di questo gruppo ormai da tempo, ce lo scordiamo. No, lo so, ce lo scordiamo. Abbiamo inviato lì, ci abbiamo Marcello Lippi qui che ci racconta. Sì, sì, no, ma dipende anche da come sono rimasti. Certo, andare in Cina 6 mesi dal mondiale è una mossa economica. Non ti piace Diamanti? A me tanto. No, a me piace Diamanti, figurati, a me piace moltissimo Diamanti. Sono convinto che lì il ballottaggio sia Cassano Diamanti. Sono convinto che Balotelli vada portato perché comunque è il più grande talento fisico e non si può prescindere. E secondo me Immobile può creare problemi a Girardino Osvaldo. Cioè può rientrare in quel gruppo lì dove secondo me... Ma ci siamo, però vedi che alla fine ci siamo, perché l'incertezza è tra il giovane oppure gli anziani, perché anche Gilardino, che è un ottimo giocatore, è uno ormai in procinto di trasferirsi a Toronto, cioè sono quelli che hanno chiuso la carriera. Io dico, allora tanto vale prenderne uno che ancora la deve cominciare la carriera. Sì, questo è vero. Poi non dimentichiamoci che il mondiale, ci sono due cose uguali e contrarie. Da un lato chiaramente l'esperienza può essere un valore, ma dall'altra, da Paolo Rossi in poi, lo sappiamo benissimo, la condizione è troppo decisiva. Cioè qui, al di là di alcuni giocatori che con il loro carisma porti a prescindere, perché hanno talento, carisma, perché sono percepiti come pericolosi dagli avversari, e quindi ovviamente Pirlo, Buffon, poi questo è stato addio, per cui sta, però voglio dire in generale, se anche Pirlo non fosse quello di oggi ma fosse quello con qualche critica di qualche mese fa, per me è titolare inamovibile di questa squadra a prescindere. Però poi il resto, soprattutto davanti, secondo me ti serve la magia che in questo momento Immobile possiede, perché hai visto il gol di sinistro che non è il suo piede, l'ha fatto ieri sera. Sei in quella stagione in cui tocchi una palla e ti va dentro. Sai cosa può servire oltre il talento? La forza fisica. Sì, sì. Perché con quel clima che ci sarà, ragazzi, io già anche negli Stati Uniti stavo per morire per il caldo che c'era, no? A Pasadena, certo, volte. Sì. Ma in Brasile sarà anche peggio, forse, come umidità. Certo, laggiù in Amazzonia, come no? Allora mettiamoci questi ragazzi. Dipende molto. In Amazzonia sicuramente, quest'anno abbiamo avuto una esperienza in Confederation, il clima non era drammatico, sinceramente, la finale a Rio c'era un clima perfetto. Però come dici tu dipende tendenzialmente i livelli di umidità saranno pazzeschi, farà caldo, grandi livelli di umidità, e Prandelli ha ragione nel dire servono atleti. Roberto Renga, ti ringrazio, ti saluto, buon pomeriggio a voi, buon lavoro. Ciao Roberto. Non è che ci siamo lanciati da solo in Brasile, sognare non costa niente, quindi continuiamo a fare bene con umiltà, con i piedi per terra, e magari il sogno si realizza. No, l'ho detto, adesso devo continuare così perché mancano ancora tante partite e voglio continuare a fare bene. Certo, dopo la stagione passata trovarsi lì in cima fa piacere, perché ho lavorato tanto e adesso sto prendendo i meriti, sto vedendo i frutti del mio lavoro, quindi però continuo con la massima serenità e continuerò, spero di continuare a segnare. Questo è ovviamente Immobile, non dimentichiamo che alla prima stagione in Serie A di questo livello, perché l'anno scorso è stato diciamo dimenticabile, 5 gol se non ricordo male in una Sampdoria, in una stagione molto molto difficile per lui dopo quella della Serie B trionfale nel Pescara. Carmine, provincia di Benevento. Carmine, buongiorno. Carmine, buongiorno. Buongiorno. Carmine, linea 5, buongiorno. Carmine Burane, 5 minuti. Carmine, pronto, Carmine, pronto? Pronto, sono qui, pronto. Eccoci. Benevento città? Provincia. No, provincia. Dove? Il paese, un paesino, si chiama San Lorenzello. San Lorenzello, mi manca. Dunque, abbiamo fatto questa localizzazione geografica, adesso di cosa parliamo? Io volevo intervenire a proposito di quello che ha detto lei, dottor Genta, ieri sul discorso del livello del campionato italiano. Sì. Sul fatto che secondo lei, giustamente, come per il mio modo di vedere, manca una squadra che può competere con le grandi a livello europeo. Sì. Però il campionato italiano, insomma, non è secondo me, di così basso livello. Io che mi diverto a seguire un po' i campionati anche stranieri, non credo che una squadra come il Parma o la Sampdoria in un campionato, che ne so, quello francese, insomma. No, ma io guardi che sono d'accordo con lei, ma poi tra poco ne parliamo. Dopo la borsa abbiamo un ospite con cui affrontare anche questo discorso, cioè, perché a me fa impressione, ma fa veramente impressione vedere festeggiare uno scudetto il 25 di marzo da uno che ha la faccia di uno che sta aspettando il tram, perché era scontato questo scudetto, con il giubbino, il piumino e il naso arrossato dal freddo di Berlino. Questo era ovviamente per Guardiola. State lì. Borsa, Cristiano da Bologna, lei stia lì, ne parliamo subito dopo. Tutti convocati. Ovviamente chiedo scusa per il lapsus. Immobile ha giocato sia a Genova, ma non nella Sampdoria, nel Genova. Mi sono confuso io. Pierluigi Pardo, mi è venuto in mente anche, guarda come sto messo, che stasera hai Tiki Taka Reloaded. Bravo. Giusto? Sì, stasera siamo dopo le Iene. Doppietta settimana. Doppietta stasera dopo le Iene, con tutti i gol, chiaramente classico di Chitaca, però insomma con tutte le immagini, insomma, una puntata un pochino più sull'attualità, visto che stasera giocano tutti tranne Inter, sì. Udinese, Roma e Torino. C'è una partita interessante che, però, che insomma, è quella che si gioca a Firenze. Stefano, dai. Fiore, Andrea Sorrentino. Ah, c'è Sorrentino. Sei riuscito a portarti Sorrentino? Sì, ma sì. Gli ho promesso che gli cambio la vita. Cioè, lui è già un sex symbol adesso. Tra l'altro è felicemente sposato, con figli, sì, non sarebbe altro. Però Tiki Taka Reloaded non mi dispiace. Ti vedrei bene con l'impermeabile nero e l'occhialino. Cristiano, Bologna, dicevamo? Sì, intanto buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Come di rito vi avrei dovuto fare i complimenti per la trasmissione, ma dopo che ho visto che avete ospitato Cruciani, il signor Cruciani. Anzi, che problemi ha? Che problemi ha? Ci dica. No, non è simpaticissimo. Comunque, Parenzo. Parenzo un po' di più, ma abbraccio fortissimo. Barisoni. Grande Barisoni. Prossima guest star Barisoni, ma soprattutto sei cuore d'accordo. E denari. Il mio programma cult, dove stamattina parlavano della vista, la vita, tanto, salute, no, salute. Io sento, tanto io e Pardo siamo per il crossover, quindi a turno portiamo tutta Radio 24 in tutti i convocati. E il grande casino. Il gastronauta. Vai, lascia parlare Cristiano. Signor Paolo. Mi fa impazzire. Cristiano. Allora, Alessandro Milan. Fa il bravo. Solo Milan. Dai, l'ultimo Alessandro Milan. Dai. Il Milan va benissimo. Allora, io adesso faccio la lista di proscrizione. Perché... Barisoni, via. No, Barisoni sì. Rigoletti? Rigoletti, sì, dai. Fantastico. Senta, il signor Giannino. Come lo vedi? Ma anche lui è in fila per essere stirato, però dai, è già più simpatico. Comunque. Volevo fare una cosa, perché come ho sentito che parlavate di stadi, mi è scesa la carogna, essendo tifoso del Cagliari. Vi volevo un suggerimento per riabilitarvi agli occhi dei non crucianiani e cagliaritani. Una trasmissione su Cellino. Monografica. Una dedica su, no, veramente, guardate che fate la svolta. Io, perché dopo la storia anche adesso del Leeds, io mi chiedo. Allora, io sto già pensando. Anche nella Lega italiana. Sto già pensando di ingaggiarla come autore. Anche Pardo sta pensando la stessa cosa, perché lo conosco bene. Come inizierebbe lei una puntata monografica su Cellino? Con quali parole? Guardi, io c'ho. No, proprio cominci. Per cui non posso mettermi anche per avvocati. Quindi non mi faccio parlare di certe cose. Io andrei semplicemente a vedere. Non tanto, gli ultimi 2 anni di gestione Cellino, ma in generale, per un tifoso del Cagliari, nonostante quello che si dica, un minimo di dignità anche nell'essere rappresentati ci piacerebbe. L'ultima che veramente ci ha buttato giù in maniera è stato quando era lì in predicato per prendere il Leeds, che poi l'unica cosa che ha preso, vabbè. Ma invece mi scusi, perché sulla cosa è stato definirci la 500 dopo 22 anni di disastri che ha fatto in 22 anni, la 500 adesso è la Ferrari. Ora però ritorna col cinquino neanche revisionato. Fra l'altro, perché il cinquino a me l'hanno appena fregato, quindi sì, parla ancora in lutto per questo. Sono molto sensibile all'argomento del cinquino. No, io vorrei capire, lei quindi, lo sceicco, perché si è fatta questa voce, lo sceicco lei lo accoglierebbe? Ma guardi che aperto. No, allora, uno non era lo sceicco, ma io se mi mette anche, è che è passata miglior vita a Pacciani. Se no, cioè, il discorso Pacciani è uno soltanto, ma non Cosa si può c'è? Avere Cruciani no, Pacciani sì, come presidente del Cagliari. Ma no, no, ma no, va bene, Cristiano, le prometto una puntata monografica su Cellino, lei però viene qui e nell'ombra ci fa da autore, perché solo così possiamo farcela io e Pardo. Io saluto invece Paolo Condò, nostro abituale amico. Ciao Paolo. Ciao Carlo, ciao Piero. Fa il lavoro ciao, più bello del mondo, va in giro per l'Europa a vedere grandi partite, e questo lo sanno, sapere che lo sanno ci sono, tutti quanti. Non possiamo fare pubblicità, c'è la frecciolata, no? Frecciolata. C'è, sì. Cioè, no, c'è il Club Ulisse che è per quelli che volano un pochino, poi c'è la frecciolata che è per quelli che volano un po' di più, poi c'è la frecciolata Plus che è quella nera per quelli che volano tanto, e poi c'è la Condose. La Condose che ce l'ha solo lui perché è azionista di tutti quanti, di tutti quelli di qui sopra. Come dico sempre nel tentativo di farmi perdonare, il giorno in cui assegnavano i lavori mi sono alzato prestissimo. infatti noi ti invidiamo come le bestie, ma ti vogliamo un gran bene lo stesso. Grazie. Senti, allora, no, a me fa imbestialire, dicevo prima Pardo, uno scudetto, parliamo di campionati, di livelli, di spettacolarità, divertimento, incertezze, eccetera. Ieri sera ho visto un campionato assegnato il 25 di marzo, che credo sia record, ma se non lo sai tu non lo sa nessuno. Dopo il gol di Kroos, dopo 5 minuti di Hertha Bayern, vedo Guardiola che apre la bottiglietta dell'acqua, beve un sorso, acqua liscia secondo me, con l'aria, dicevo prima, di chi aspetta l'autobus alla fermata alle 7 di sera. È stato facilissimo, non è record, perché in Austria hanno fatto ancora prima. Il Red Bull Salzburg ha vinto con una giornata di anticipo rispetto al Bayern, però comunque dei principali campionati è sicuramente un record quello del Bayern di Guardiola, che ha fatto l'unica cosa che poteva fare. Ti ricordi quando quest'estate tutti noi eravamo sarcastici o perlomeno ironici e dicevamo sì, arriva una squadra che ha fatto il triplete, cioè è come la famosa barzelletta, no, di quello del pugile che arriva all'angolo tutto sfasciato e chiede al secondo come sto andando e quello gli dice se l'ammazzi fai pari. Ecco, praticamente la situazione di Guardiola era questa, cioè sì. se pareggiava Heynckes, sarebbe stato una cosa. Allora, noi già sappiamo che fare il triplete è difficilissimo, ripeterlo è irreale letteralmente. Ma certo, è irreale. Infatti io ho goduto come un pazzo con il triplete di Heynckes esautorato e licenziato a gennaio, è una delle cose che più mi ha entusiasmato in assoluto. Però voglio dire, è di livello un campionato che finisce il 25 di marzo, posto che il sale di una competizione grosso modo è l'incertezza, un minimo di incertezza. Naturalmente no, il campionato tedesco è peggio ancora di quello italiano da questo punto di vista, che già insomma quello italiano sono 3 anni ormai, che no, sono molto più di 3 anni, perché sono 3 anni che lo vince per distacco la Juventus, sì, ma prima l'aveva vinto per distacco il Milan e prima ancora era l'Inter che li vinceva per distacco, quindi l'Inter aveva avuto la seconda stagione di Mancini che l'aveva vinto all'ultima giornata a Parma. Ecco, però per il resto negli ultimi 10 anni ce ne saranno stati un paio di campionati contesi fino nelle ultime giornate, diciamo, sì, in Italia. In Germania va ancora peggio che da noi. Certo, in Inghilterra invece, che è il campionato decisamente più interessante, e giro la considerazione a Pardo, me l'ho già fatto ieri, hanno una nazionale che fa schifo da anni, da 50 anni. Sì, lì c'è un problema, secondo me, di invasione degli stranieri a livello di Premier League. Sul calcolo non l'ho fatto recentemente. Ma tu dici che è quello, Piero? Beh no, era la spiegazione che davano gli inglesi 2-3 anni fa, non credo sia cambiato molto, insomma un'ampia percentuale di stranieri. Ma sai, gli inglesi hanno una cultura, io ho vissuto in Inghilterra, un paese che amo e lo amo molto calcisticamente, hanno una cultura calcistica secondo me abbastanza perdente, cioè abbastanza, giocano in una maniera abbastanza loro, con tutto che poi il campionato è diventato molto contaminato dagli stranieri, ma il calcio inglese è un calcio che rimane secondo me legato ad alcuni stereotipi un po' particolari, e quindi poi alla fine difficilmente riesce a farcela. Tatticamente non è un calcio eccezionale, è un calcio io mi ricordo, Paolo lo potrà confermare, a metà degli anni 90, quindi non ieri ma nemmeno un secolo fa, quando Vialli sbarcò al Chelsea, prima ancora di lui Gullit, se non sbaglio, come allenatore del Chelsea, rimasero sconvolti dal fatto che ci fosse la dieta mediterranea, una certa attenzione. L'abitudine del calciatore inglese era andare poi la sera al pub a farsi quattro pinte, a sfondarsi di birra, sì. Secondo me questa cosa qui ancora un pochino c'è a certi livelli, poi che non è che vincono perché vanno al pub la sera, però insomma la mia sensazione è che e non hanno avuto, a differenza dei tedeschi, una iniezione di calcio diverso che la nazionale tedesca ha avuto invece negli ultimi anni, perché i vari Özil, i vari talenti, diciamo, di seconda generazione tedesca, l'Inghilterra non ce li ha avuti. C'è anche da tenere presente poi il loro peccato originale della divisione in quattro nazioni, no? Cioè, dal punto di vista calcistico. Certo. Perché, per esempio, prova a mettere nella nazionale inglese Giggs negli ultimi vent'anni e adesso Gareth Bale, e automaticamente il livello della nazionale si alza e di parecchio. Sì. Però col fatto che loro hanno continuato a dividersi in Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Inghilterra, hanno perso un sacco di giocatori. Sì, poi c'era anche Eriksson che invece diceva che giocavano a ritmi talmente forsennati, non solo la singola partita, ma come cadenza delle partite tra le due coppe che sono nazionali, che sono comunque molto importanti, il campionato eccetera, che arrivava alla fine stagione, che dovevi portarli con la carriola. Sì, c'è un'altra bellissima, un'altra bellissima che ha scritto Vialli nel suo libro. Parlando con Mourinho e Wenger soprattutto, e questi gli hanno spiegato che il salto di qualità del calcio a livello di club inglese è stato effettuato quando hanno cominciato ad allenarsi in campi coperti. Per quale motivo? Perché il lavoro tattico, con il clima che c'è in Inghilterra, il lavoro tattico che consiste nel fermare la partitella, certo, e dire tu hai sbagliato lì, tu saresti dovuto andare a destra invece sei andato a sinistra, con quel tempo non lo potevi fare perché si ammalavano tutti. Con l'invenzione dei campi coperti, non so a chi si deve questa prima intuizione nel campionato inglese, allora hanno cominciato a fare lavoro tattico e il famoso calcio palla lunga e pedalare degli inglesi si è un po' evoluto. Però si è un po' voluto soprattutto a livello di stranieri, gli inglesi sono ancora abbastanza legati, sì, a questo. Allora io adesso devo salutare Pierluigi Pardo che deve andare a preparare Tiki Taka Reloaded, mi raccomando, sì, vestito tra da... poco arriva Meda, eh? Tra poco arriva Guido Meda, dopo... Oggi è il compleanno, eh? Oggi è il compleanno, lo so, lo so, compleanno di Guido Meda, e poi soprattutto mi risolve l'imbarazzo in cui vivo da ormai da tre giorni, avremo questo intervento autentico di Guido Meda, perché domenica la gente era disperata perché non sentiva lui e gliene fregava poco più di niente di Valentino Rossi che ha fatto quella gara. Follia. Comunque, Pier, mi raccomando, Tiki Taka Reloaded. Paolo Condotti, prego di stare ancora un attimo con me perché ti voglio girare un'ultima considerazione figlia di tutto questo dopo il traffico. Tutti convocati. Scusa Paolo Condo, ma per inciso, è vero che inizio stagione tu dicevi che Tevez non faceva gol, perché così scrive un ascoltatore? No, ma quello lo confermo ancora adesso, che non è un goleador straordinario, la sua forza è un'altra, sì, è quella di essere il regista offensivo di una squadra. In questo sono d'accordo, secondo me è una straordinaria seconda punta. Sì, cioè non è l'uomo da 25. Goleador in questi anni, è quello che fa 25-30 gol, beh, senza parlare di Ronaldo e Messi che ne fanno 60 stagioni. Ecco, in questo senso Tevez non è un grande goleador. Ecco, no, l'ultima considerazione invece, figlio di quanto abbiamo detto, nella mia strenua difesa di anche patetica di quel forte Apache che è il campionato italiano, io dicevo sinceramente adesso ci sentiamo depressi, poi già abbiamo la tendenza a fregnarci addosso in maniera proprio senza vergogna, però io dico quello che ci manca è la squadra in grado di competere come è stato per il grande Milan, per l'Inter del triplete, per un'altra Juventus, quella del 2006 eccetera, se vogliamo andare più indietro facciamolo. Quello che ci manca è una squadra che rappresenta non il calcio italiano ma se stessa, perché Barcellona e Real Madrid non rappresentano il calcio spagnolo ma se stesse, per non parlare del Paris Saint Germain. Beh, ma il Bayern è il caso classico proprio di squadra che rappresenta se stessa, ma chiaramente, non il suo campionato, chiaramente. A noi manca quella fondamentalmente. Beh, ma insomma, voglio dire, è inutile girarci attorno, lo sappiamo tutti che c'è un peccato originale in questa stagione del calcio italiano, che è stato l'eliminazione della Juventus nel girone di Champions. perché quella squadra è la Juventus, non può essere nessun'altra, la sì. squadra di cui tu parli, e io sono convinto che i valori effettivi della Juventus siano almeno da quarti di finale di Champions League. Sì, però la Juventus per essere competitiva con quelle, beh, datemi, non so, Ibrahimovic, faccio un nome a caso. No, allora, se gli dai un giocatore mortale, la Juve può vincere. Appunto. Però già così la Juve è da prime otto. Sì. È assolutamente da prime otto. E quindi purtroppo la cosa che ci dispiace di questa stagione, che ci fa sentire depressi, è il fatto che la nostra rappresentante, che è la Juventus, ha avuto un incidente di percorso clamoroso ed è uscita da Copenaghen e Galatasaray e Real Madrid naturalmente. Ecco, è questa la cosa che non è andata in questa stagione. Sì. Se fosse andata come doveva andare, come tutti noi pensavamo che andasse, appunto, adesso ci troveremo ad avere, cioè adesso faremo discorsi molto meno funerari. Bravo, e non saremo qui a parlare della Grande Depressione. Ci troveremo ad avere una come, vabbè, i tedeschi ne hanno due, c'è anche il Borussia Dortmund. Comunque ci troveremo ad avere una nostra rappresentante con delle belle potenzialità a combattere nelle ultime otto della Champions League. È chiaro che questa è la cosa che è successa, che non doveva succedere. Certo. Dopodiché io sono convinto che l'anno prossimo, forte di questa esperienza, allora intanto io spero che vincano l'Europa League, perché comunque chiaro, in questo modo aumentano la loro presenza internazionale. Dopodiché io penso e spero che l'anno prossimo la Juventus verrà ovviamente mantenuta competitiva, se non addirittura di più, e arriverà tra le prime otto della Champions. E magari arriverà quello che tu definisci meravigliosamente un giocatore mortale, che è quello che poi potrebbe, sarebbe quello che poi la può far vincere. Bravo, che la può far vincere. Ecco. Già comunque questa Europa League, sono d'accordo con te, sarebbe un bel Prozac, appunto, sì, per la Grande Depressione. Ma sì, che ma perché vai a giocare la Supercoppa Europea? Sì, ma per tanti motivi. Quest'estate già tu parli subito di un grande obiettivo per la calcio italiana, per la Juventus, chiaro. Grazie Paolo, un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Paolo Condò. Allora, adesso Prandelli, il Prandelli pensiero sui convocabili. Potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io. No. Ma a me fa piacere enormemente nel momento che un grande campione, uno dei più grandi campioni del dopoguerra, che tuttora gioca, dà la possibilità al commissario tecnico di eventualmente pensare a lui. Questo per me è un atto di grandissima considerazione. Ovviamente si deciderà eventualmente solo esclusivamente dopo aver verificato la condizione fisica, quindi non è solo un discorso tecnico, perché dal punto di vista tecnico Totti è inattaccabile, ma insomma l'età è quella che è, anche se sta dimostrando di reggere i ritmi, ma in Brasile insomma c'è qualcosa di più di ritmi, quindi valuteremo la condizione fisica. E vedere di nascosto l'effetto che fa, e vengo anch'io. Lui in questi ultimi mesi sta dimostrando di avere una grande condizione, di star bene anche a livello psicologico, e quindi le scelte saranno dettate solo esclusivamente da un punto di vista tecnico. Da un punto di vista comportamentale, se c'era qualcosa da dire o da chiarire, l'abbiamo fatto a tempo giusto, quindi le valutazioni Cassano, saranno solo esclusivamente tecniche. Abbiamo parlato di Cassano, nota di redazione. Balotelli. Tutti abbiamo grandi aspettative, tutti pensano che Balotelli tutte le volte che prende la palla deve fare qualcosa di straordinario o di impensabile. Io quello che posso suggerire a Mario è che deve fare il minimo, diciamo, ma soprattutto di avere un grande rispetto per tutti quelli che girano attorno a lui, per tutti quelli che lavorano con lui, e quindi quando un giocatore in campo è generoso, allora gli si può perdonare tutto. Lui, se vuole un consiglio in questi ultimi mesi, deve pensare solo ad essere generoso nei confronti della gente, basta. Davide, provincia di Pavia, buongiorno. Buongiorno, volevo ritornare un attimo sul perché la gente non va negli stadi, perché secondo me il problema è completamente un altro, cioè io vado allo stadio da 40 anni, Ho portato mia figlia, che ne aveva 5, allo stadio di San Siro. Sì. Sono entrato allo stadio, adesso ne ha 19 tesserate, viene con me allo stadio. Sì. Noi andremo allo stadio comunque. Sì. Andiamo allo stadio di San Siro, anche se è vecchio. Sì. E ci piace. Ci piacerebbe di più andare in uno stadio magari nuovo, un po' più accogliente, ma noi allo stadio ci andremo lo stesso, perché siamo visceralmente tifosi. Lo Juventus Stadium è uno stadietto poco più grande di quello che abbiamo a Vigevano, nel quale ci stanno 40.000 persone, sembra sempre pieno e affollato semplicemente perché ci sono 40.000 persone. A San Siro 40.000 persone ci sono quando giochiamo contro l'ultima in classifica. Però non è sempre così, Davide. No, non è sempre così. Non è sempre così a San Siro. Anche il Milan quest'anno si è fatto i suoi bei 25.000, 22.000, ma anche l'Inter. Non è vero che ce ne sono 40.000 tutte le volte, almeno a me pare. Cioè, poi lei conferma quanto io penso, e cioè che non è stato il demonio TV a svuotare gli stadi, perché se uno è appassionato di calcio, lo sport va a vederlo lì, va allo stadio. Il problema vero è che entrare allo stadio, e lei sa meglio di chiunque altro, visto che ci va tutte le domeniche, entrare in uno stadio italiano è una cosa di una difficoltà terrificante. Lasciamo stare i costi, che sono elevatissimi, però ci sono un sacco di disincentivazioni per i frequentanti degli stadi. Poi ci sono quelli che giustamente, per fortuna ci sono e ci credono davvero, vanno lì e si guardano la partita. Detto questo, secondo me la dimensione dello stadio della Juventus è, in generale, ma perché io vedo stadi vuoti tutte le domeniche, è la dimensione di un pubblico calcistico italiano. Alessandro da Milano, vediamo se ce la facciamo, abbiamo 30 secondi, dica. Velocissimo, ciao, dica. Carlo, ciao. Mi hai preceduto, però dico lo stesso la mia. Allora, sì. Gli stadi, i prezzi sono incredibili, in un'epoca dove non si va a mangiare la pizza, allo stadio ci si rinuncia. Bravo. Io devo riportare mio figlio che vuole andarci da 5 anni e faccio fatica. Seconda cosa, secondo me è conseguenza di una piccola cosa che mi è successa un po' di anni fa. Vado con mia moglie col pancione incinta e mi requisiscono all'entrata l'accendino, che stare meglio così, che sì, magari aveva una faccia brutta, e a lei col pancione, una brava donna, viso angelico, il tappo della bottiglia. Andiamo su, canne a non finire, per carità, uno si può fare canne come vuole, e i fumogeni, ma come li accendono sti fumogeni, come tirano le bottiglie? Sì, no, ma al di là di quello, come ci entrano le armi dentro lo stadio, cosa che succede abitualmente, e lo sappiamo bene, inutile far finta di no. Allora, Guido Meda, dopo il GR, chi vuole telefonare lo faccia, così parla direttamente con lui. 800 24 00 24, numero verde. Convocati. Guido Meda scatenato. Io credo che preferisca questo piuttosto che Happy Birthday to You, anche se cantato da Marilyn Monroe. Guido Meda, auguri. Grazie, che carini, grazie di cuore. I miei 30 anni non possono essere così. Quanti? 30. Quanti? Non ho capito. Non, allora, guarda, non è un problema, cioè non ho un problema a dire che sono 48. Cioè, però a me quelle robe formali non mi interessano. Ho deciso che sono già 3. Un paio d'anni che sì, io festeggio gli anni che mi sento e non quelli della fottuta anagrafe. Poi può anche capitare che me ne senta di più. Stavolta sono 30, va così. Sì, io, come ripeto tutte le volte, 29-2-68 e vi batto tutti. 29, bravo, 29 febbraio, ciao. Cioè, merito della tua mamma e del tuo papà, non è? Ciao Guido, sì, no, comunque tanti auguri. L'altro giorno l'ho fatto in differita a Graziano Rossi, perché mi ero scordato, gliel'ho detto, ho rimediato pubblicamente, adesso te li faccio nel giorno giusto. No, io, tu sai, raramente mi trovi in imbarazzo di fronte a questo microfono, molto raramente. In questi giorni ti confesso, certo. Sì. Perché? Tita Milano, ridatemi Guido Meda. Questo ascoltatore non si firma, facciamo un referendum digitale per avere Meda al MotoGP, ridateci Meda, il popolo sovrano vuole Meda. Poi c'è anche chi scrive: ringrazierò per sempre Sky di averci trovato le scatole Meda, ma è una minoranza sparuta. Cioè, vedo la corsa di domenica, il giorno dopo voglio parlare della corsa e tutti parlano di Guido Meda, e io che devo dire? Non lo so, Non lo so neanch'io. L'hai fatto, no? Ti ho sentito ieri e l'altro ieri, un po' ne hai parlato. Sì. Però non so, io non so cosa, cioè ti posso raccontare delle mie sensazioni, forse può essere giornalisticamente curioso sapere come ho visto io la gara di sera. Non come so, l'hai vista? Ti può fregare? Sì, non abbastanza. In piedi sul divano, come in molti hanno pensato, ma seduto per terra, appoggiato sui gomiti, a casa di mio fratello e di mia cognata, con i miei bambini e il nipotino, perché hanno pensato che quello poteva essere per me un giorno un po' triste o un po' strano in effetti, e quindi sono stati carini di invitarmi da loro e me la sono vista in quel modo lì. Con grande tranquillità ho fatto anche un po' il figo anticipando a mio fratello e a mia cognata quello che sarebbe successo. Ho pronosticato un Rossi secondo al secondo giro, facendo poi alla fine della gara un figurone per questa grande botta di culo che ho avuto. Quindi insomma Se non si sdraia Lorenzo magari finisce in un'altra maniera, ma questa è un'altra cosa. Esatto. Ma è vero quello che mi ha raccontato ieri Roberto Ungaro, che è un nostro comune grande amico, che ha imparato in officina? Cioè che frequentavi, che come sei? Allora, bisogna stare un po' attenti alle leggende metropolitane, nel senso che io sono sempre stato appassionatissimo di motori, di produzione, da quando ero piccolo, a causa di un, o per merito di un papà pilota di mille miglia, motociclista, insomma, non ce l'ho sempre avuta sta cosa qua, proprio alla grande. Poi quando si è trattato di dover fare il telecronista del moto mondiale, io non riuscivo ad andare oltre un banale tagliando alla mia motoretta, e ho deciso che invece bisognava saperne di più, che dovevo saperne di sospensioni delle moto da corsa, di sapere esattamente come funziona un motore ad alte prestazioni, l'effetto, la lavorazione dei metalli, e a quel punto ho frequentato un'officina di un pilota che aveva corso a Milano per un po' di tempo. Ho tirato qualche bullone, ma soprattutto ho guardato e li ho sfiniti di domande. Ecco, sì, è vero che avevo iniziato così. Poi in realtà non mi è mai granché servito, però pensavo che fosse un atto dovuto nei confronti della mia competenza. E allora che cosa è che serve? Sentire le cose dentro. No, ti voglio fare una domanda di tecnica, di tecnica narrativa. Cioè, com'è come interpreti tu la telecronaca? Cioè, si sale di giri da quando si... È una cosa che ti viene da dentro? Guarda, a me succede oggettivamente questa. A parte avere un gusto personale che secondo me è un po' di tutti quelli che fanno televisione e che hanno una personalità televisiva abbastanza spiccata. Mi viene in mente Pierluigi Pardo. Io sono certo che Pardo nella sua vita televisiva non ha mai avuto paura una volta, non si è mai sentito a disagio, si è sempre sentito anzi a proprio agio, perché forse siamo un po' piacioni e ci diverte raccontare una cosa che ci appare. Pardo questo piacione vale. Sicuro, guarda. Questo vale, se vuoi vale un po' anche per me, a me diverte l'idea di comunicare nella mia diretta qualcosa, e questo è un presupposto. Poi c'è la parte relativa al mestiere, che è quello di informare, di fare il giornalista, che è divertente, che ha come parte terminale proprio quella della telecronaca diretta, dove le tue notizie le riversi, e c'è quella passionale che francamente io non controllo. Cioè, guarda, una cosa curiosa, molto spesso mi ritrovo sulla sedia a cavalcioni come se fossi in moto. Tutto sommato forse è qualcosa che ha a che fare con l'invidia, con la voglia di essere al loro posto. Ecco, mi immedesimo un po' in loro senza averne le capacità e racconto quello che penso, che provino, quello che provo io da divanaro. Sì, è quello che provo io. Però io sono un sacco di messaggi. Scusa, gente, ma è ovvio che lo spettacolo fanno i piloti, ma sputi sulla tua categoria se non riconosci il valore di un commento. Vogliamo Meda. Guido Meda, fenomeno indiscutibile, ci manca moltissimo. Carini. Allora, guarda, un po' mi sono mancato anch'io. La mia domenica senza Meda non è la stessa. Mi manchi Meda MotoGP Michele. Vabbè, poi te li mando. Sei carino, ma ne ho avuti molti, li ho trovati molto carini. Sono sentito più popolare da non telecronista che da telecronista in questo caso. È la prima volta che peraltro parlo pubblicamente con qualcuno in questi giorni. Non ho stato d'animo, non ho vissuto una grande depressione per il fatto di non essere lì. Ho altre sfide sul mio cammino. Un po' mi sono mancato, quella è stata casa mia, è stata la mia famiglia per tanto tempo, per cui non esserci ha fatto strano. Però insomma, gli atteggiamenti professionali, le scelte personali, professionali e aziendali rispettate, secondo me. Devo dire anche una cosa, che prima ho cioè, ho avuto modo in quest'ultimo periodo di constatare un po' come funziona la famosa rete, nel senso che c'erano quelli che erano un po' stufi di me che manifestavano il loro dissenso, sì. Pochi ma violenti, sì. E tutti questi altri, io dicevo, ma veramente, ma sto così sulle palle a questi qua. E poi ho scoperto che in questi giorni, ho scoperto che nel momento del bisogno la grande massa che non parlava è venuta fuori in una proporzione molto più vasta, ecco, quindi sì. Un po' mai imparato questa cosa qua. Ci sta che uno dopo 12 anni dica, ma forse ho anche un po' stufato, voglio dire, no, è giusto mettersi in discussione, e invece mi sembra che forse non avevo ma guarda, stufato, guarda, ecco. io ti do un campione, eh. Paolo da Vicenza, Oreste da Monza. Paolo, buongiorno. Buongiorno, sì, niente, io mi associo a tutti i pensieri che avete già espresso e faccio una proposta. Per chi non fa la telecronaca per radio, noi togliamo l'audio e ce l'ascoltiamo per radio, perché un anno così non si può affrontare. Che carino, grazie Paolo. Guarda, è un'idea che mi è già stata proposta, ma anche quelli radiofonici sono diritti e come tali vanno pagati e costano, per cui ecco, non è che il mezzo radiofonico sia diverso da quello, non sfugge a quella logica lì, per cui il diritto televisivo o radiofonico, il diritto di narrare è un prodotto e come tale viene trattato, per cui credo che sarei un abusivo, a meno che un'emittente radiofonica, una Radio 24, non abbia voglia di comprare i diritti nel moto mondiale. Ma io dico, e di farmi un super ingaggio, adesso, però adesso, no, dico, adesso sono un po' sentando, nel senso che io comunque, essendo un dipendente Mediaset, ho la superbike sul mio cammino e quella devo fare, ecco, sono molto contento di farla, di vivere questa nuova sfida, il fatto di vivere una coppia strana e inedita con Max Biaggi, tutto avrei pensato qualche anno fa, forse un giorno, di fare coppia con lui, sì. In realtà peraltro scoprendo che poi funziona, sì. Per cui insomma non sono depresso, anche se nascosto in un angolo del mio cuore, devo dire che tornare al motomondiale di Riffo di Raffa, una cosa che mi piacerebbe molto, però nascosto in fondo al mio cuore probabilmente c'è chi mi piacerebbe commentare tutto ciò che ha un motore che si muove sul globo terracqueo. Certo. Oreste Monza, buongiorno. Buongiorno a lei e un dica. Saluto a tutti. Volevo così avere un confronto con voi, perché secondo me ci sono delle cose che non capisco, forse vedo un po' un complotto in generale, ma in soldoni, l'anno scorso la Dorna ha fatto una cosa strana, ha fatto andare per la prima volta un rookie in una squadra ufficiale, sì. Fino all'anno prima non si poteva, come mai? Sì. Boh, non lo so. La Dorna quest'anno decide di cambiare regolamento, giusto o sbagliato, sì. Ma non è che si va contro a quello che è, io mi ritengo motociclista da sempre, ho guidato, mi piace la moto, sempre seguito, non è che si va contro a quello che è lo spirito del motociclismo? Cos'è il MotoGP? Una gara questo, di velocità, allora sì. Perché io devo penalizzare una Factory, una Yamaha, una Honda, una Ducati o quella che come, sia guardi, come si diceva che... ieri hanno permesso a questi di correre con il doping, però su questa domanda motociclistica le faccio rispondere da Guido Meda, aggiungo un'altra domanda mia, cosa può realisticamente combinare Valentino Rossi e poi chiudiamo la baracca. Guido. Allora, come tutte le cose che hanno a che fare con la passione, nel caso dell'ascoltatore che mi è animato da una passione autentica, si finisce un po' per perdere di vista tutto il corollario che sta attorno alla passione, si finisce per dimenticare, qua bisogna essere più realisti del re, che il motociclismo per campare deve essere comunque una macchina che pompa soldi, che fa soldi, che genera business o che argina dei debiti, perché in questo momento poi non è che nel motorsport in generale si navighi in buone acque, per cui il fatto che ci siano delle esigenze televisive e che la televisione, giusto o sbagliato che sia, viene considerata la prima risorsa, direi che quegli adeguamenti che all'appassionato puro, anche a me non piacciono peraltro, fanno parte di questo inseguimento ad una formula che sia più possibile sfruttabile, certo. Dal punto di vista commerciale. Poi trovo che il fatto di aver ammesso Marquez alla KRC ufficiale, anche se la regola l'anno prima non c'era, sia stato più un bene che un male a conti fatti. Bravo. Nel senso che si è meritato tutto quello che ha fatto e come vedete continua ad essere insieme a Rossi l'uomo che anima la MotoGP. Per quello che riguarda invece Valentino Rossi, rispondo a Carlo, intanto dico questo, un'altra volta ci è stato dimostrato che quando c'è una gara bella di mezzo lui c'è quasi sempre, cioè a 35 anni ha ancora un gusto per la bagarre, ed è indomito quando si trova gomito a gomito con l'avversario. Questo non glielo si può negare, ti può stare simpatico o antipatico, ma non glielo si può negare. Certamente. Ricordo che l'anno scorso la gara del Qatar, prima gara dell'anno, finì esattamente della stessa maniera, con la differenza che c'era Lorenzo davanti e Valentino fece secondo. Non voglio dire che una rondine non faccia primavera, però ci andrei un po' cautino, nel senso che adesso sul cammino di Rossi arriva Austin, che arriva anche sul cammino di Marquez, che Austin l'anno scorso ha fatto il diavolo a 4, per cui pensare al campione del mondo adesso sarebbe anche un po' scorretto nei confronti di Valentino, significa aggravarlo di una... hai ragione Guido, abnorme. Aspettiamo delle verifiche. Intanto c'è Ale che ha trovato una soluzione, tutti a vedere MotoGP a casa di Guido Meda, va bene, grazie. Tutti da me? Tutti da te. A birra chi la porta. Ciao Guido, grazie. Appunto, auguri. A voi. Grazie, cari. Auguri. Ciao Guido Meda. Grazie Franco Piantanida, autore di questo programma. Roberto Scatriti, regia. Ciao a tutti, ci sentiamo domani. Tutti in piedi sul divano. Ultima chicane. È tornato. È tornato. Rossi c'è. Rossi c'è. Rossi c'è. Torna a vincere.